Il punto di Stefano Folli. Secondo un sondaggio dell'Espresso, un italiano su tre vorrebbe il ritorno alla lira. Il risentimento verso la moneta unica e verso l'Europa a guida tedesca è dunque altissimo e molto pericoloso in vista delle elezioni di maggio. Tuttavia questo spiega il fenomeno Renzi più di ogni altra considerazione. C'è in lui un forte tasso di populismo, ma per così dire costruttivo, non cupo e distruttivo come in Beppe Grillo. Le politiche di Renzi intercettano l'insofferenza verso l'Europa, ma propongono una soluzione morbida del problema. Nessuna uscita dall'euro, bensì la fine dell'austerità imposta da Berlino. Ed è questo che probabilmente il nostro Premier dirà ad Angela Merkel lunedì prossimo. O allenti un po' il rigore e ci fai respirare, oppure devi aspettarti che tutto questo risentimento dell'opinione pubblica si traduca in un successo drammatico delle forze anti-euro nel voto di maggio. È una partita spregiudicata che Renzi gioca con apparente avventatezza, ma il risultato, dati i tempi e le circostanze, non è scontato come in passato.